Sergio, c'è qualcuno? Chi è? Chi è? Avanti. Avanti, chi sei? Non ti ho riconosciuto. Natalino sono. Oh, ciao Natali. Allora, come mi senti? Un po' bassino di radio, ma forse ho il volume basso io. Aspetta che ho aumentato il microfono, così com'è? No, già va bene, Antu. Gappa, gappa. E di segnale com'è, Natali? Vai. Oh, e tre prova. 9-10, però sono col 3009 mi è secco questo smitter. Tu stai uscendo con pochi watt, è vero? Ehi, allora, 4 watt dell'apparecchio. Io sono con l'87 e il microfono da tavolo. Ehi, già sta andando bene. Già conosci un microfono a tavolo, sì. Ehi. Però sono in stazione 2. Ehi, vabbè. Anche se sei in stazione 2 già arrivi bene lo stesso. Gappa, gappa. Non c'è nessuno, cavolo, a confrontarmi un po'. Adesso provo con i watt a manetta. Guarda, Natali, sono con i watt a manetta, com'è? Sempre così, sì. Non noto differenza, o magari perché siamo troppo vicini, là, diciamo così. Con uno lontano devi provare. Pappa, pure. Vabbè, abbassiamo un pochino, là. Non troppo, ecco qua. Dovrebbe andare bene così, adesso te guardo quant'è. No. Scala 9-20. Scala 20. Ehi, ora. 12 watt già abbassano. Dovrebbe andare abbastanza bene, là. Sì, già va bene. Non c'è neanche bisogno di mettere quei watt lì. Cazzo, con 4 watt ti sento. Cappa. E qua stai arrivando 8, dai. 8 stai arrivando tu. Con quello là arrivava un po' di più. Vabbè, lo smith è un po' più secco questo. E anche questo è secco. 9 qua, attaccato 9-5, ciao Antu, ciao Natalino. No, non sono attaccato, sono i vatti dell'apparecchio, non sono attaccato. Sì, sì, infatti, 9 pieno, dai. Prima eri 9-5, quando eri attaccato. Cappa, buonasera. Quando ho girato i vatti a manetta, già va bene, dai. Io sono con 2 vatti e mezzo effettivi, modulati. Quindi sarò anch'io intorno 8-9. Cappa, già va bene, allora, dai. Sì, sì, pure tu sei così, sì. Tutto omologato. Tutti omologati siamo, mi sa. Io sto uscendo solo con i watt dell'apparecchio adesso. Sì, la modulazione è anche buona, anche quella di Natalino. Natalino ha più toni bassi. E qua i toni non ce l'ha questo microfono, se l'avevo provato a girare. Già va bene, dai. Sei in sede, no? E che antenna hai messo? La bazooka o la boomerang? La ringo. La ringo c'è. Perché lì non hai il palazzo, è un po' bassina, dai, però in città ce n'è davanti, a voglia. Già lo credo io. E cosa vuoi ammetterci? A meno che non fai il plinto, ti metti un traliccio di 20 metri. A te ne immagini. Sì, già andava i gusti già. Troppo. Dunque tu sei più forte di non per qua, Sì, guarda, potrebbero essere 2 watt e mezzo, 2 watt, 7 utili. Non di più però, Cavolo, sei 9-20 qua. A 9-20, un po' ottimistico mi sembra. Tanto a proposito, avevo un giorno provato a vedermi tutti i segnali, sai, intorno a 9, 9, 5, così, con tutti gli apparati tra Presidente e CRT, bene o male si equivalgono, qualcuno magari più secco di mezzo Santiago, magari anche di un Santiago, uno mi segna 8 anziché 9, però sono bene o male tutti allo stesso livello, solo uno è un po' più secco. Ah, già va bene. Poi io sono sicuro che se metto il 7900 che tu avevi visto, mi arrivi di più, perché quello c'ha 9,45 di fondo scala. Vediamo se Natalino è impegnato o se può riprendere, che vado a bere e comunque sono in ascolto, la parla più fuori. Ecco, dai, poi qua non c'è problema. Natalia, avanti. Ecco, io già sono qui. Non c'è problema. Cazzo, l'altro giorno ti ho visto. Ehi, ti ho salutato, non ho mai visto. Eia, d'accordo. E dico, va. Oh, ya, non mi viene un no. Ah, con Daniele ieri. Ma lì sta lavorando, lì vicino. Ehi, è andato a dare una mano. Ah, ho capito. Ci stavo portando una bombola lì, almeno via Natalino. Ehi, stavo passando, ho visto Daniele e praticamente sono andato a salutarlo, capito? Già ti ho visto. Ah, ho visto che c'è l'antenna nella macchina, cioè. Ehi, la magnetica mi ho messo. Ah, l'ho vista, l'ho vista. Ma ce n'è uno che si mette qua, uno con un appunto qua vicino, con un appunto grigia, che c'ha l'antenna magnetica, chissà chi è. E coso è quello lì che c'ha l'appunto grigia? Il fratello di Antonio Riserva, come cavolo si chiamava, non me la mente. No, non è lui, no. Non è Cristian, proprio un'altra macchina, È la grande punto, quella. Quella normale, capito? Ma io ho visto che c'aveva una di quelle proprio grigia. No, questa è la grande punto, lui c'ha la punto normale, qui c'è una grande punto, diverso. Ah, non ti ho fatto caso. Comunque, aspetta, come si chiama? E come, che nominativo ha? Adesso non mi viene in mente. Raga, il fratello di Antonio Riserva. Non lo so, io lo chiamo sempre Grizia, lo chiamo, ma non è lui, lui già lo so chi è. Allora non lo so chi è. Non lo so come manco io, la verità. È troppo silenzioso rimane questo qua, ma sta lì. Se ne vediamo poco di casino, vi dà parecchio. Avevo sentito che ti si era bruciato un apparecchio, Antu. L'Intec mi è andato in oramara. E che Intec era? Il 550. Praticamente si è staccato un filo del microfono e è andato a bruciarmi dove c'è cosa l'alimentazione. Capito? Siccome quelli cavoli così hanno è amplificato, c'è un'alimentazione tipo il gamepad. E mi ha bruciato. Non va più, ho provato a vedere se riuscivo a col codice, niente, non fa più nulla. Ehi, quello bello omologato, grazie. No, non è omologato. È omologato, sì. Ehi, già lo conosco quell'apparecchio che me l'avevi fatto vedere. Sì, ce l'avevo 10 anni, l'ho sempre usato io. Poi c'è attaccato un filo dentro, che ha fatto un casino niente. Non so neanche a chi darlo per dare una sistemata. Un tecnico ci vuole lì, ma sarà bruciato qualche diodo. Mi, a Raul, che è Raus? Cagnetto, come lo chiamate? Ma non capisco nulla, che c'è il cane travagliato. Zitto! Cazzo, una cosa che non si gridi ai giugani. Come lo chiamate, Natale? E cosa? Giugani. Kurt si chiama. Ehi, Kurt, sei agito Raus, ma mi stava così, chi non vince la sua cosa, Oh, che al perizoma, attiramente mi ha risata. A tu. E a me la metto, via Natali. Uia. Io te lo dicevo apposta per farti ridere, cazzo, perché facevi quella risata, mamma mia. Come ti dici io di Ruberizzo, ma attaccavi a ridere, cazzo. Già me l'ha messo via. Giovani, erami, e il capo si fumava, vero Antu? io perché ho paura di tutti. E altri tempi erano andata lì. Un po' di venticello si è alzato, per un cacciamurino qui dentro, mamma mia. Come sei in casa tua, ascolta. Aspetta un attimo, non so. Sveglia. Qua si sta discretamente bene, ma sono nudo. Qua c'è caldo a fare tutto. Se vai in cucina a fare roba c'è caldo. Se ti muovi appena appena c'è caldo. E in confronto a fuori qui c'è fresco, mi non abbiamo né condizionatore né nulla. Io ho il ventilatore a soffitto. Tanto. Lo so. A casa mia si muore. Si muore soprattutto la notte, che è quando vado a dormire su. Cazzo, sotto il tetto c'è un cazzo da morire. Sottotetto sì, purtroppo. C'è un amico che praticamente c'ha la camera in una mansarda e prende tutto il sole dall'alba al tramonto. Dice che è una cosa da morire, da morire. Lui in estate c'ha le magliette bagnate, si deve cambiare 3 o 4 magliette durante la giornata, se le puoi strizzare e esce il sudore, una cosa, io sarei morto, morto. Vabbè, io ci sono, guarda, io non c'ho una mansarda, ma quasi, te lo dico io. E io, ragazzi, le buone magliette, è molto grande, dato se muore Sara, che cosa? Cioè, l'unica cosa che usa le ciabatte. Quando siamo soli, sono io e Sara, non c'è altro nessuno. Cosa mi pongo a trattare le magliette e cose? È molto grande, mi co. Mettici il perizoma, tu, quello che ho parlato. Ehi, come vuoi anche con la piccheriola fuori? Anzi, con la picchiriola fuori, Arturo, bubù. E allora? Beh, si se muoetta in casa, care, cioè. Ma se ti vede con la situazione fuori, ti salta addosso. No, è normale. Scusami, è cazzo dentro casa, non è che... Non c'è nessuno, non abbiamo bambini, non abbiamo niente, che cosa? Infatti. Se non bevo ci giro i mutanti, la stessa a me. Adesso si muore dentro quella casa. Mi giù ci sta un po' più bene, mi. Invece si è appigliato una casa e mia cognata che pare la cantina di Rubino. Ui, ui. E beh, Marco, non vieni a pigliarti il caffè, C'è qualcuno sotto. Attenzione, chi vuole entrare, avanti. Lo sentite voi? Negativo, Antu. Sa carriera. Ibu. Quel parete di biglia ne va, i miei vicini qua. Perché c'è un'amplificazione bestiale questo. Natali. Iuia. Hai un'agendina, mi sembra che ce l'avevi scritto, il mio. Aspetta un attimo che è successo un disguido. Sì. Antu. Eia. Marco. Vabbè. Andava. Aspetta che è un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un att vengono al petto e non so come sto, come sto uscendo. Allora, pronto, sto tentando il lato, mettili là, perché sto tutta la buca male. Ok, sono sceso ancora, vado a però meglio va? Va meglio sì, Antonè. Così come niente, Antonè? Ah, faceva tutto il PPL, ossigrafo, ho cambiato cavo, eccetera, eccetera. Siccome ho lasciato il barattino tutto il giorno acceso. Mi sono visto il batterio da 50, sono sceso. Hai capito? Ho aperto il cavo, l'ho messo nel VGD 113. Poco fa ho tolto l'antenna, quella, la canola pesca, sembra che vada bene. Se lo lascia acceso tutto il giorno, cacco, col cavo che c'è, è chiaro che arriva a 50 watt, c'è bisogno di accenderlo tutto il giorno. Lo accendi il primo pomeriggio e basta, la mattina lascialo spento, se non lo usi, cosa la tende a fare? Io faccio così adesso, d'inverno sì, quello per attaccarlo arriva a 50 watt, mettilo a 30, 40, capito? Già lo so, ma siccome sono salito sopra il tetto, c'è una cosa o l'altra, lo sa che Simona quando c'è questo pazzetto certo, si impaurisce cosa del genere. Ok, adesso ho tolto anche la cosa, così ci vedo meglio. Ok, non ci vedo una fanculo dello Smith, adesso va bene. Sembra perfetto, l'unica cosa che c'è di... che devo sistemare il coso adesso, l'alimentazione, perché quei tappeti che ci ho messo non vanno bene, devo metterli giù per forza, li ho presi poco fa, giù una cosa e gli faccio l'aggiuntura, e vuole avere due cavi, ho visto comunque adesso sopporta benissimo. Adesso l'unica cosa che provo è il microfono, perché non l'ho provato, è stata lasciata dal tetto, era pieno lucido il cavo, il PL, non riuscivo, ho avuto più la pinza e il CVC è staccato. Ciao, buonasera. Figura di due, vabbè, comunque non lasciare acceso tutto il giorno perché anche le mie scaldano, io l'ho acceso poco fa, capito? Che tutto il giorno se ne va al massimo con la potenza, al massimo, e come calda, capito? E così 140 e così già lo conosce come si occupa. Va bene, non segnare il tuo, vabbè, segnalo benissimo, non lo forzare molto, che c'è troppo caldo, meno vatti possibile a queste radio, batteri, perché le state scaldano bene. Quindi da me. Ciao Fagappa, bene ti arrivo, Ocaio. Sì, 9:10. Così poco. Non lo so che radio stai usando, quanti vatti stai usando, ma... è un po'. Sono 87, cioè, sono la stazione 2 io. No, scusa, 9:20 sì. Ah, mi Maria strano. No, vedi, altro se fa chiaro, non ci vedo più manco lo Smith, cazzo. Kappa. Se voglio aumento di brutto, ma già basta così. Lascia stare, voi le crepate le varie, va bene così, ci sentiamo, quindi voi arrivi a oggi, voi arrivi, va bene. Assus. Abbasso, che lo sai. Aspetta un attimo che mi dai un controllo. Adesso sì che ci siamo. Microfono MB5, a voi se non fischia più adesso. Cosa non fischia più, c'è tutto a frusci. Ah, guarda, c'è le cuffie vicino. Adesso fischiamo, io, cioè non mi dire che ho fischi perché non è possibile, mi sta ascoltando. No, però la radio mi piace più di quella del microfono normale, a quanto ce l'hai? A 3. Io ho detto a 3 non fischia, prova a mettere la 5 invece fischia. Però devi, aspetta. Fammi fare fino a fianco. Soffitto per forza. Quello che ho fatto vedi. Se ci metto il dito, cazzo, è una cosa vicina. Qua, me la passo sopra. Però adesso ha migliorato un bel po' in confronto a ieri, eh. Sì, ma se tu fai come ti ho detto io, tipo che tutta diciamo in destra che c'hai col tavolo, ti ho detto, pulisci tutto, anche l'alimentatore, lo devi mettere in terra, c'hai il cavo lungo del 140, perché è lungo, è quasi 2 metri, ok? L'alimentatore lo metti in terra, tagli gli occhielli, le giunti bene con 2 bananine o 2 mammut il cavo e già è eliminato. Hai un rientro DRF, l'alimentatore vicino alla radio, non ci deve stare. Già lo so, già lo so, già me ne sono accorto. Adesso fate mai tutto questa roba qua che mi interessava di più. La questione della lampella, ma allora deve essere più tranquillo. Ho visto che ha migliorato moltissimo. Quindi vedi tu, adesso non vedi, qui c'è il microfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andrà bene. Allora mettilo a 3, 3 e mezzo, mettilo a 3 e mezzo, quasi 4 e ti avvicini. Invece va bene a 4 metri. Aspetta un attimo. Allora. Io un livello di soglia. Così i toni non si fanno un cazzo. Meglio a zero. Allora. Ok, questo è il livello di soglia. Se parlano anche vicino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sembra un MB più 4 normale, va, diciamo. No, se ti diciamo noi così va benissimo, i toni lasciali a zero, non serve a niente quei toni, lasciali stare a zero, col K non serve a niente i toni, col baracchino sì, capito? Lascia i toni a zero, il microfono a 3 e ti avvicini un po' al microfono e vai bene, non fischia. Ehi, arrivati, adesso la batteria modificare anche i cavi di alimentazione addirittura, perché quelli che ci sono fini. Devo mettergli anche 2 di cavetti collegati sempre nello stesso puntale in modo da avere l'amperaggio giusto. È anche sopravvimentato, quindi il discorso è anche quello. Andare, adesso faccio le cose piano piano, stasera, e vedrà che esco come ci deve. Comunque è migliorato parecchio. Il copporta prima ha migliorato parecchio. Poi collegato i punti di via, solo domani mattina provo a vedere se funziona, l'alimentatore è quello vecchio, li piazzo quello e stacco quello a cosa, quello cinese. Così metto l'alimentatore suo, faccio anche togliere gli occhielli, quelli rossi, l'aggancio direttamente lì e è fatto. Tu fai come ti dico io, esci bene. L'alimentatore toglio da lì, metto in terra, le colleghi il cavo, che già è lungo, fai bene il collegamento all'alimentatore, che è molto importante. Sopra la scrivania non te ne è niente. Radio è a distanza di 20 cm il microfono, già c'è il cavo lungo. E vedrai che non fischia, perché da me non fischiava. Capito? Perché io ho il piano di massa che sta proprio lì, sai, c'è un rientro di RF. E lo sono tutto la metà stasera, la verità di quella modestia lì, quindi stavo vedendo posto una parete stamattina, ho fatto spazio e ho fatto un bel po' di roba, adesso lo voglio tutto il resto. Ma sono salito sotto al tetto perché mi sono venuto a togliere il gusto di contro la mia pelle, cazzo, è incullato, tutto per usare il pappagallo per toglierlo, era pieno di ossido, era bianco il piede sopra. Adesso ci ho messo delle gigre 113 e già va bene. Gappa gappa, va bene. E beh, Antonio, non sei riuscito a lavoro, tutto a pace. il torniamo c'è uscito. Questa radio lo sai, bisogna che abbiano spazio e pulizia, altrimenti il meschio è tutto andare, capito? Quindi fai pulizia lì, metti bene l'alimentazione, bloccati tutto, e l'alimentatore mettono per terra, l'alimentatore ce l'ha due metri dalla radio, perché manco lo vedi da dove arriva l'alimentazione, capito? Perché altrimenti fischiava. Cosa allora, aspetta un attimo, stai facendo niente, finiti a fare pulizia e fatti con l'alimentazione invece di stare a guardarti la radio. Ehi, adesso mi faccio l'alimentazione, non ti preoccupare. Cambio il cavi del, prima di tutto del tappeto di dietro dell'alimentatore switching, che sono fili. Dopodiché gli aggancio due, li ho comprati stamattina, 5 euro, mi ha fatto fare anche se vale molto, che beh, che c'è sto casa mia, cazzo 5 metri di cavo, cazzo, 5 euro, cazzo, o ne ammetto, cazzo. Caro il cavo, io avevo prendetto a fare una lunga wire, un'antenna a filare lunga 50 metri, ci vediamo una matta centera. Costa un sacco di soldi, infatti non ne ho preso ancora, se ho via il culo. Faccio una pallina anche se antenne, tanto non ne uso, non mi interessa. Ok, dai Antonio, fai quello che devi fare, che è molto importante. Ok, ci sentiamo tra un attimo. Ehi, ciao! Ciao Antonio. Ciao. D'accordo, adesso faccio questa modifica. Allora vai, uccellini vai. No, perché? Uccelli vicini. Intendia, c'è. Intendia. No, il mio uccellino non ti preoccupare. Non uso cardellini io. Andava così. Ti è cincata la portante? No, sono io, sono. Stavo provando una cosa. Come è dato a Antonè? Prova? Un'altra prova? 9:22. Adesso 9:22. Me lo di prima. Ok, boh, non lo so, 9:22 sono vero, fondo. Vabbè, qui, è bello, tu sei anche se stavo a parlare con la luce, segnale ieri, sei a casa tua la qua. Poi dove c'è il minimo 9:30. Guarda adesso. Fa un po'? Come te la prova? Boh, sempre uguale mi sembra, non è che la suite è quello che è. Aspetta un secondo. Cavolo, non ho aumentato un cazzo, cazzo che strano. Aspetta, piglio la lente, cazzo. Se no ci vedo la fanculo, aspetta. Oi, oi, non devi la vedere più citti. Non cantare vittoria, non arrivi all'età mia di Claudio, vedrai che Marco l'ha scritto la bomba, le vedi. Non ti preoccupare che ci sono già arrivato, non c'è bisogno dell'età tua. L'importante è che trovi il buco, come il resto se la piglia in culo. Fatti quel lavoro, ti metto la portante. No, Anto, dove farò quel lavoro? E sono andato, non mi piace come è collegato con la radio. Deve mettere bene il cavo, tutto volante per trovarla, adesso l'ha provata a posto, adesso fai le cose fatte bene. Se no non riesce a usare il microfono, capito? Ho dato anche il microfono a cavo, non riesce a usarlo. C'è un rientro pazzesco, viene poco roba nella scrivania, ferra, ferraglia, cacciaviti, bici, martelli. Lì c'è un bel posto, ho capito, lì fai per pulizia, ti metti 140, un baracchino, quello che vuoi, tutto messo in ordine, e vedrai che funziona tutto, uscì è tutto un casino, ti fili volanti, la radio deve essere alimentata bene, infatti io ho i mammuti quelli da 6, grossi, che sono collegati all'alimentatore, e non ho mai avuto problemi con i Mi 60, perché i Mi 60 fruscia se non è collegato bene, capito? A me non mi ha mai bruciato. Per perché tu non c'hai niente lì, Andrò, l'ho visto io, c'hai la radio e il microfono, capito? C'è quella radio lì, tu la metti nell'altro scaffale, insieme al lineare, insieme a tutta un'altra questa roba che vai, ti fischia. Vabbè, io ce l'ho a parte, ce l'ho. La verità, la mamma è dato problemi. Lo so come faccio io, come ho fatto io. Io il K ce li ho tutti a parte con gli MC60 a parte, gli altri radio HF ce li ho sopra con i microfoni a parte, che se la mutoneggi tutto, che non c'hanno spazio e soprattutto non c'hai un bel piano di massa, capito? Difficile. Ehi, hanno fatto gli esperimenti con gli MC60 fino a capire che deve avere uno spazio notevole per ma qualsiasi tipo di microfono amplificato con i K, così se no ti fa rientro perché spingi un bel col processore. Capito? Lo so già. La verità qua io non l'ho mai provato, ma sono sicuro che esce a bomba, esce. Non ho mai fatto una prova con quello lì. Ma sono sicuro che esce un bel forte, esce. Gli altri escendo bene, e non conviene sfruttarlo. Sempre pericolo, cioè, capito? Meglio lasciare tutto così come esci bene lo stesso, non ti preoccupare, già va bene. No, vabbè, oggi tu mi fai una prova, era. Un sabato però curti, che c'è poco traffico, però ti ripeto, stai molto attento, perché il nemico è sempre un agguato. Sì, vabbè, ci sto per fare una prova, poi c'è anche tutto. K di Rogero, va bene. È un caso pure allucinante, meno male dentro casa c'è un fresco che... Io direi che ve ne ha da sciumate un capo. No, dentro casa, fuori ci sono 29 gradi, dentro ne ho 21, fate il conto, ci sta da Dio. Cazzo, metti il culo, lo gabba a moglie, metti il culo, perché non è... metti il culo, non è altro, metti il culo, gabba a moglie, perché... Se no è un casino, capito? Un caso a morire, certo. Voi qua. Non dirò mai, ci ho abitato con la zona per 35 anni, un po' che calda. Qua sono in alto, c'è un bel fresco, c'è un balisso, non volevo pagare la fragrazia, me l'ha inventata. C'è un po' di fresco dentro. Ma come sono fatte in cosa? In quel materiale stanno usando essere Zotec? Si conferma, sia esterno che interno. E allora, già se da Dio c'è. E poi c'è la passeggiata dietro, c'è 30 metri di convoglio col marciapiede, a 1,50 m dalla casa, figurati. Perché ci sta deve avere? Ma posso avete o a quell'altro? A quell'altro, e allora, andando a un condominio, va a pagare per la leva, porto ciò. Porto, autoclave, tutto, non manca mai leva. E anche fatta bene l'acqua la mia, fatta analizzare, perfetta. Poi qua sono sorgenti di Oslo che scendono, capito, quindi sono buoni. Bella. Va bene, dai, io mi sdraio un po' nel divano a guardarmi la TV, se no sto seduto qua e mi fa male la schiena. Ci sentiamo dopo, Antonio. Antonè, metti a posto tutto, ti voglio sentire bene. Ciao, a dopo. Sì, ok, caro. Allora, bevete l'acqua, dai. Gratis. Ciao, ci risentiamo. Ehi, ho fatto che ciò, adesso inizio a innaffiare. La rosella vado più di Dio per il fatto. Altrimenti mi gessa per morto. C'è buona, mi ha dato una tasata. Come vi guerra, non fate i rani a me, tu. Mamma mia, non mi dici pure tu puro vino sei fissato. No, berretta buona, se c'è un bicchiere di vino buono. Io non bico né la né parecchina e non mangio ghiaia. Ah, così io. Allora, il resto tutto è buono. Dai, Andrew, sentiamo dopo, un abbraccio, ciao. Ehi, ciao. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Tu sei combinato là? Ho cambiato l'alimentatore. Si nota? Anzi, c'è un bel forte. Vedo che non peschia più adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Ho cambiato l'alimentatore, cambiato. Sto usando l'alimentatore quello da 20 ampere. Quello da 40 evidentemente è un troppo basso di alimentazione. Da, questo mi dà intorno ai 13 bivolotti, l'altro mi dà 12 e mezzo. Cioè, si nota la differenza. Non fischia più, c'è una bella amplificazione. Adesso sono a posto. Bravo, vedi che sei bravo a fare cose. Ultimo, a quanto ce l'hai il microfono? Tu mi lasciati sempre a zero. Ora a zero, il microfono a 10. Così, ecco, così è a 5. E così a 10, di amplificazione. Sì, ma si sente troppo l'avvento, lo metti a 7, Antonio, 7, 8. No, non è l'avvento, è il ruolo delle cose. La televisione, ecco fatto, faccia a posto, così a 5. Che 7 lo puoi mettere, mettilo a 7. 7, preciso. Non ce l'avevo io, a 7, va bene, ottimo per la tubla, bravissimo, dai. Quindi era l'alimentatore che non serviva. E i collegamenti li hai fatti nuovi? O li hai messo gli occhiali, li hai lasciati? No, ho comprato 20, cioè, le lette di cavo di quello grosso, le ho lanciate gli occhiali, ho tolto quelle mollette e ho lanciato direttamente gli occhiali al coso, al capo. E direttamente 20 cm di caffetto all'alimentatore. Bene, stai uscendo, benissimo, alla grande. Ascolta, e metti il tono 1 a vedere. Tono a 1, sì. No, non mi piace, lasciava a 0. Invece così è a 9. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. No, è a 0. Ti togli tutta l'amplificazione, mettilo a 0. Ok, pronto, perfetto. Io non so adesso. L'amplificatore è perfetto. Picca 50 watt, ma cosa mi guarda? Lascia stare così, dai, mi sta scurando il telefono, a dopo. E via, d'accordo. Ciucucciù. Ora, ciucucciù. Sentito. Ho fatto in ballo se ce ne scendeva l'alimentatore, un cazzo se ne vada. Adesso proviamo un FM. Così in banda ce ne scende l'alimentatore. No, ho fatto in banda, non se ne scende niente con l'alimentatore cinese. Perfetto, aspetta che proviamo un FM. Che cavolo è quello? Avanti che vuole entrare in banda, cioè, sono in AM. Così lo lasciamo. Capito?

senti? Negativo. Ferrante non sorda c'hai tu? Non lo sento. Francese che malanno è lui, ogni tanto arriva a 9, 9 e 5. No, non mi arriva qua. Cioè, già me l'arrivi tu, non ti preoccupare. Adesso c'è da 7. No, io proprio non lo sento. Strano, ma vero. Non lo so. Gava, non c'è nessun altro, ma tu? Poco fa c'era Claudio Pomponio. Gava, l'hanno chiuso adesso. Ma ti non ti rilassati? L'altro giorno, sì, quando è? Sabato scorso. E qua ci siamo visti con Natalino. Sì, ero di servizio lì. E lo si vede? Aggregato ero. Ah, ma dove stai andando? A sassa di soccorso? Reia, in trasferta ero, che c'è buona assistenza con loro. Davvero? Ma non sei con loro? Io ho tutto un gemellaggio, un miciabuglione. Con chi sei adesso? Io sempre a uso, ma l'occorrenza vado anche da loro. Ma così è? Chiara. E si può fare? Eh beh, certo che sì. Praticamente tu sei due associazioni diverse. Io vado per la mia. Ah, ho capito. Tu sei con l'associazione quella che ha usato, giusto? Però appartengono anche loro, quanto ho capito. Ehi, allo stesso ceppo, si può dire. Ah, e allora? Mi ha detto? Sì, ho già capito. Ma te hai visto che bel circolone che si è fatto quello di... la croce di quello che ha la croce azzurra la testa, no? Visto l'hai, Già ti è cantato lì. Io, lasciamo perdere. No, però la verità, Edo è un pesce piccolo, lui comanda, ma ne dice che è cosa, è dobolitico, perché comanda vero. Ah, boh, ma adesso dentro di suoi, Anto, non lo so. Da voi ve ne uno si chiama Giacomo, so chi si comanda davvero. Già te lo dico chi è. Già te lo dico chi è che comanda davvero chi vedrete. E quello è anche il suo, sapevo io. C'è lui, ma non è interessato a lui. Ah, un padrone vero è cosa? A me è maledetto che il padrone è vero è... Già non conosci tu il padrone vero, cara. Io so che è stato alla moglie, la compagna, ma la sorte è lui. E tu stai cantando la congrega, vecchio vedretto. Non ti preoccupare. Da voi è andato. A personaggi come è, Antu? Già le conosci, cazzo. No, dico, gente va, tranquilla. No, tutta gente meno ferragona. Non ti preoccupare, te lo posso garantire, gente di una certa età, cioè, gente grande, gente un po' più signorina, capito? Non vanno a neghi di ferragona da Saliveccio. Quello ti voglio dire, che personaggi frequentano lì, perché non sono mai entrato, so davvero non ci sono mai entrato. Già lo so già. Ma no, lì ci frequenta gente un po' così, ha già vinto Murulienti che conosco. Capito? Bene, buon per lui. Se lavora forte mi fa un po' di dinaghi sul sabato. Ma i soldi mi fanno. Meglio, hai aperto anche in settimana, giusto? Sì, ma io penso che più che lo fanno è venerdì e sabato e domenica, fanno anche da mangiare, fanno. Tanto l'altro giorno era pieno. Cioè, ma perché conoscono gente, capito? E quindi la gente ci fa. È un posto tranquillo, non è casino. Infatti, cioè tu più però c'è anche 10.000 persone, però c'è l'ambiente, insomma, non è tanto bello, poco fa e via tu. Se invece c'è stata gente tranquilla, allora piace arrivare anche altre persone, capito? È così che funziona. Se no buonanotte, no, non fai niente. E sta giusto che mi metto per pure una politica in mezzo. Sono così zente. Bene, vero, non per lui. Non per lui. Almeno così. Incrementa, se non se li mangia. Non penso. Ma è dove? È dei cuscini, cioè non è Edo il padrone, l'ho compreso, eh. Padrone non è lui, ti sto dicendo che se ti porta con un uomo di gare, ma è no che non te lo dica. Certo dirà, cazzo, qui c'è chi c'è che veramente comanda. È una persona, è più in alto, Già va bene, già va bene. Io, ecco cosa ne sta facendo tu? E non che sono porro, beh. Fatti comprare il condizionatore. E già per la via, già per la prima. Solo che la luce in goccia. Lo so, ma mi fa per sempre un po' tu, vabbè che lì siamo sempre si scalda subito. Vedo di un forno, Ma che sta. Lasciamo un po' qua che la pompa è troppo. Prova tu. Va a vedere. Ecco lì va meglio. Quanto è un po' di meno, 9-10, no? Ma è sempre uguale c'è tu. Aspetta un attimo. Guarda un cazzo. Aspetta. Accendiamo. Se lo pompa troppo, cazzo. Sopra le finali dopo. Adesso sei 9-10. Infatti. Sono sceso un po' di potenza. E 9-5 non sei 9. No, 9-10 sì, che cazzo di numero, sto con domani lo smitter. E prima 9-15. E 9-10 sì adesso. Già basta, non ho già un pompa troppo e mi scalda troppo. Il dissipatore è già caldo, cioè no. Ma andare piano piano mi sa cosa, non devi pompare, no? Poi qualcosa che c'è lì dentro, tu scalda ancora di più. Già lo so, già caldo su caldo diventa. Alimentazione ce n'è abbastanza, ci ho pure un caffè sotto, però così va meglio, da meno potenza. Bene, bene, poi anche questi sono già caldi, invece sì, 10 minuti fa mi sa. No, lo posso non scalda niente. E chi ha tu? 4.30. Ah, vabbè. Non tantissimo, però intanto gli arriva la temperatura sua ideale e poi già ci sono le ventoline e si attaccano. Si accende la ventola, si accende. E si conferma, c'ha quella a ruota, sembra quella del tricetto. È troppo finto, che non c'è canto basso. Adesso già va bene, dai, l'ho abbassato. Va bene, va bene. Cazzo, l'ho misurato un giorno con un strumento serio, 22 watt da questa cosa. La manetta, non è poco, eh. Non è poco, ma va bene. Ora che radio è, tu? Alla 87. Prima serie, primo modello. Ah, ho capito. E guarda, per vicini usciti sono. A chi si intende? No, appena. Sì, ce ne sentiranno ventoline, non mi vedremo. Non più di tanto ci sento, tu. Bene, veda, bene, veda. Va bene, caro. Va bene. A proposito, e chi sa il fa la fine? Però per di basta ho visto che è in giro, sì. Era buono con lo scambiatore. Quello che ho piazzato, sì. Piazzato e poi ce l'ha continuato perché ci voleva qualche giorno ancora di fare pulizia, capito? Cazzo, ma vi potevate Hola. Vi potevate mettere qua dentro, vi potevate mettere, cazzarola. Ehi, già che va bene anche lì, Antu. Già abbiamo fatto lo stesso. Perché mica la brutta tuglia. Oh, che vecchi subacco, vai che ti rompe le palle, non ne vedi più un tipo. Meglio e meglio, va. Tanto ora, a luna ce ne andavamo. Mi avete messo in mano qua, c'erano le chiappe loro. Belli, tranquilli e beati, non vi rompevo le palle nessuno. E che se faccia papà Edo, Leonardo, vedete un casino niente. Ma mi pare che mi sei cazzato forse. Ehi, ha già protestato a Reva, a pulire tutto, e sapete, è stato pulito. E poi c'è la mamma a terra che stava inquinando il giardino, dice. Non è svegli, cazzo, non è fatto il cazzo, si chiama per buona posta, dice. Non è svegli, Daniel. Ecco, scendiamo oggi il capannone, avremmo fatto il capannone. Guarda, wow, ne trovate qua dentro, non vi rompevo le palle, insomma. Magari chiccio. Ah, boh, anche qualcuno le sta giocando, A chi mi passava? Tragioccavi, dai, tragioccavi. Se no, alzavi un po' e non passava. Se giro la manopola, vabbè che non lo fai più. Evitate perché ci mette a voce, ci mette a urlare chi tu. Metto qua il capo compreso. Cioè, vabbè, ma ragione pure, se imbruttendo il pavimento. C'è anche ragione, perché anche io mi sarei incazzato. La prossima volta ve ne entrate, ci mette il cancello, se noi ci andiamo, vi direte un cancello, potete starci quanto volete, no, non vi rompo le palle nessuno, vi mettete in un angolo lì, non vi rompo le palle nessuno. Ehi, la prossima volta lo faccio, ma non ci siamo la prossima volta, tanto tutto quel casino, lo so dove vuoi bene. Cavolo, tradirami. Sì, sto scambiatore, mi vado sui capo. Ehi, non è tanto lo scambiatore, il problema è che entra in circolo nell'acqua. E poi si fa tutta una emulsione, capito? Ci vuole Sant'Antonio per lavare tutto. Oh, fortunati, eh! E perché cosa tu? Che l'avete trovato buono il pezzo. Eh sì. Meno male, e solo facevo una modifica, il solio lo toglievo direttamente e cicciai. Mi passavo il tubo e non passava più niente. Tanto vedete che esce acqua lì dentro.